Mix 24, musica e storia. Bentornati a Mix 24, musica e storia. Siamo nel 1993, io sono Alessandra Fiori e... Io sono Franco Schipani, ciao a tutti. Ciao Franchi, allora, ciao. 1993, che musica ascoltavamo, ballavamo e cantavamo, Franco? Beh, non so esattamente cosa ballavamo e cantavamo, però al primo posto in classifica dei 45 giri più venduti nel 1993 c'è... Bene voi, se gli altri vivono per niente, perché in fondo siete voi, vedrai che questo posto is beautiful, beautiful. Se siete ipocriti, abili, non siete mai colpevoli, sono state mai colpevoli e avete buoni stomaci, sorridete, gli spari sopra sono per noi. Gli spari sopra di Vasco Rossi, hai visto come comincia tutto rock questo 1993, caro Alessandro? Molto rock, Frank. Comunque, ecco, di musica italiana nel 1993 in classifica di italiani ce ne sono veramente pochi. Perché? Perché? Perché la maggior parte erano degli Stati Uniti, dall'Inghilterra, è un momento in cui i protagonisti sono ridiventati un'altra volta i giovani, quelli che vanno ad affollare gli stadi, quelli che comprano i CD, e quindi c'è meno spazio per le vecchie glorie e i nuovi fenomeni emergenti. Ecco, si balla molto però. Te l'avevo detto che si balla. Esatto, esatto, si balla molto ed è difficile competere, cari italiani, con brani come questi. All That She Wants, Ace of Base e What Is Love di Hathaway. Attenzione, perché di questa canzone in particolare ne esiste una versione, cara Alessandra, di 10 ore. Di questa? Ripeto, è 10 rilassante ore. Cioè praticamente hanno, hanno fatto un loop, hanno messo soltanto il ritornello. Ecco, insieme agli attori Kim Cattrall e Will Ferrell c'è anche Jim Carrey. Quindi i tre si sono divertiti a fare questa cosa. La cosa più pazzesca è che questa versione di 10 ore, sì, ripeto 10 ore, è stata scaricata da oltre 15 milioni di persone. Ah, questa qua? Esattamente, la versione di 10 ore. Ma come si fa a sentire per 10 ore? Ta, ta, ta. Però è un pezzo meraviglioso, a me piace molto e quindi l'abbiamo trasmesso. E oggi, tu anche cara, l'hai scaricata? L'ho scaricata, me la mettevo lì in sottofondo mentre lavoravo. Senti che ritmo bello. Beh, è una strana storia comunque quella di questo brano, perché in Italia, figurati che questo brano è stato ripreso anche addirittura dalla colonna sonora Piccolo Grande Amore. Allora, Piccolo Grande Amore ed è di Carlo Vanzina, che esce nel 93 ed è, te lo ricordi, Raoul Bova, che si innamora della principessa Sofia. Ma mentre loro si amano in Sardegna, Franco, dal 1993 la popolazione italiana inizia a decrescere lentamente ma inesorabilmente fino a noi. Per colpa di chi? Del poco amore. Del poco amore. Del poco amore. Ma il 1993 è soprattutto ancora l'anno di Tangentopoli. Adesso gli avvisi di garanzia arrivano a pioggia, uno dietro l'altro, ai vertici del governo, ai vertici politici, ai vertici aziendali. Claudio Martelli, ricevuto un avviso di garanzia, si dimette da ministro di Grazia e Giustizia. Francesco Di Lorenzo si dimette da ministro della Sanità. Giovanni Goria si dimette da ministro delle Finanze. Ciriaco De Mita si dimette da presidente della Commissione per le Riforme Istituzionali. Fa ridere, ma è stata una vera, vera tragedia. Un'ecatombe. Pazzesca. Giorgio Lamalfa lascia la segreteria del Partito Repubblicano e Bettino Craxi, raggiunto da un nuovo avviso di garanzia alla Camera, pronuncia la sua difesa. Ciò che bisogna dire, che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Ecco, un'accusa durissima a tutto quanto il sistema. E intanto parte anche il processo Cusani e vengono sentiti alcuni leader politici, tra questi di nuovo Craxi e Forlani, che depongono in aula. Da decenni il sistema politico aveva una parte, non tutto, una parte del suo finanziamento che era un finanziamento, diciamo, di natura irregolare o illegale. E non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere. Quando è stata la prima volta che ha saputo che dei contributi al suo partito in violazione della legge sul finanziamento dei partiti è avvenuto? Quando è stata la prima volta? Nel corso della mia gestione della segreteria politica della Democrazia Cristiana non sono mai venuto a conoscenza di contributi. Io non li ho detto non nel corso della sua gestione, lei mi deve rispondere alle domande. L'ha già detto, quindi successivamente può indicare in che data circa, quando è venuto a saperlo? Lei ha mai saputo che Citarista ha ricevuto questi 3 miliardi? No, gliel'ho già detto. Il 29 aprile del 1993, con un voto a scrutinio segreto, la Camera dei Deputati nega l'autorizzazione a procedere richiesta dai giudici milanesi nei confronti di Craxi per i reati di corruzione e ricettazione. Il giorno dopo, il 30 aprile, a Roma, all'uscita dall'hotel Rafael, a pochi passi da Piazza Navona, Bettino Craxi viene bersagliato da una folla inferocita ed è la famosa immagine simbolo di Tangentopoli, il lancio delle monetine. Ma intanto con la stagione di Tangentopoli prosegue anche l'amara pagina dei suicidi. Il 20 luglio il presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari, riceve un avviso di garanzia e si uccide in carcere. 3 giorni dopo, il 23 luglio, è la volta di Raul Gardini, accusato di aver incassato la tangente Enimont. Questi suicidi aprono molte polemiche e anche una riflessione per gli organi di informazione, per la gogna mediatica che spesso segue all'avviso di garanzia. In uno scritto alla famiglia di 15 giorni fa, l'ex presidente dell'ENI annunciava il suo atto disperato come un gesto di ribellione nei confronti di un meccanismo, queste le parole testuali, atto ad annichilire e a distruggere la persona, non a fare giustizia. Il giudice Di Pietro ha commentato seccamente, è una sconfitta. Erano le 8:45 di questa mattina in piazza Belgioioso quando Gardini si è suicidato sparandosi un colpo di pistola alla tempia. La chiamata urgente per il pronto soccorso un minuto dopo le 9. Raul Gardini, con indosso una vestaglia, era riverso sul letto. Accanto l'arma automatica, una pistola tedesca, una Walther calibro 7.65. È in questo clima che il 28 aprile si insedia il governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi. Il governatore della Banca d'Italia viene chiamato a guidare un governo tecnico di transizione ed è il primo presidente del Consiglio non parlamentare nella storia della Repubblica Italiana e resta alla guida dell'esecutivo fino al 1994. Ecco, nel 99 Ciampi diventerà poi il 10° presidente della Repubblica. È scomparso lo scorso settembre a 95 anni ed è stato un uomo chiave della politica italiana e non solo degli anni 90. Ma Franco, tu mi dicevi invece pochi italiani nelle classifiche italiane a 45 giri, ma... Pochi ma buoni, Alessandra, eccone uno! Sei un mito, sei un mito per me, sono anni che ti vedo così raggiungibile. Sei un mito per me, tu per tutti noi sei la più bella. 24, musica e storia. Bentornati a Mix 24 Musica e Storie, sono Alessandra Fiori e con Franco Schipani, ciao, bentornati. Sei un mito. Grazie, Alessandra. Grazie Franchi, ma che... 883. E con questa canzone gli 883 partecipano sia al Caltagiro e sia al Festival Bar. E fermo un attimo, non però non si sono fatti mancare nulla. Perché prima di andare a Sanremo o al Caltagiro ci sono altre novità nella politica italiana, perché con l'approvazione della nuova legge elettorale comuni e province possono scegliere direttamente il loro sindaco e il presidente della provincia. Così in questo 1993, alle amministrative di giugno, i cittadini per la prima volta sono chiamati a votare direttamente per il loro sindaco. E sono grandi battaglie. A Milano c'è il successo della Lega con Marco Formentini che vince contro Nando Dalla Chiesa del centrosinistra. A Roma lo scontro è tra Francesco Rutelli e Gianfranco Fini ed ha vinto la Rutelli, lo sappiamo. A Napoli invece lo scontro è tra Antonio Bassolino e Alessandra Mussolini e anche a Napoli vince il centrosinistra al ballottaggio di Ma questi sì che erano scontri, ma li vedi questi nomi? Mussolini, Rutelli, Fini Nando Grandi scontri. Sì, e a Venezia, senti, ti dico altri nomi. Vuoi sentire? Vado. Massimo Cacciari a Venezia. A Palermo, Leoluca Orlando. A Trieste, Riccardo Illy. Ed è quella che è nota come la cosiddetta stagione dei sindaci, Franco. Sì, sono tutti dei capocannonieri, Alessandra. Che esatto, belli nomi roboanti. Adesso invece ti faccio ascoltare qualcosa di altrettanto roboante e divertente, almeno spero. Sì o no? E questo è Fiorello con Sì o No. Ti sì piace? Divertente? Lo so, abbiamo usato quest'anno a Mix 24, come ti ricordi, per introdurre il dibattito sul sì o no, no al referendum. Ecco, comunque questo brano di Fiorello è la versione di Please Don't Go dei KC and the Sunshine Band, un mistero assoluto nella storia della musica, perché questi ragazzi realizzano questo disco, arrivano primi in classifica, sono al vertice di tutto il mondo e poi si dividono. Basta. Fine. Basta. Ciao. Preferiscono litigare. Perché? Ma non lo so. Che dici? Dico che non lo so. È normale? Ma succede, come? Ci hai fatto succede. Tanto, sei arrivato primo in classifica in tutto il mondo, c'hai un disco che cantano tutti e poi ti dividi così. Ti dividi, vabbè, perché vogliono lasciare un buon ricordo. Ah, ho capito. Capito? Comunque, i nostri artisti italiani dei quali parlavamo prima, è vero che in Italia in quel momento non stanno vendendo tantissimo, perché ci sono molti cantanti inglesi, americani, francesi, tedeschi, svizzeri che stanno vendendo da noi, però... Guarda un po', ci sono due artisti che invece vanno fuori dai confini nazionali e cominciano a vendere milioni di dischi in Sud America. Già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati? Cosa siamo poi? Confinati di cuore solo che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Sto pensando a noi. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai, quanto altro male ti farà la solitudine. Eros Ramazzotti, Le cose della vita e La solitudine di Laura Pausini. Pensa che quando io mi trovo in Sud America, mi è capitato molte volte, dico, Laura Pausini, hai visto, un'italiana brava. Mm-hmm. No, sono italiana, è di Porto Rico. Come no. Porto Rico? Laura Pausini, c'è una sorella che è in Porto Rico. No, Sono convinti che sia portoricana. Lei ha vinto nel 93 tra i giovani a Sanremo, giusto? Sì, loro sono, hanno vinto tra i giovani, si sono sempre, insomma, hanno avuto un bel trampolino di lancio a Sanremo, però insomma in Sud America ormai, sai, loro insieme poi a Bocelli, Zucchero e molti altri ci stanno facendo fare veramente una bella figura, Alessandra. Però Franco, allora, ti devo dire una cosa, che in un'intervista del 2014, pensa, sì, la Pausini ha raccontato chi era il Marco della canzone. E il Marco della canzone è stato il suo primo grande amore, che l'ha lasciata malissimo, malissimo, pensa, l'ha lasciata baciando pubblicamente un'altra. Beh, molto male. Che non era che Cozzalone. No. E la canzone, infatti, ha raccontato sempre la Pausini che si doveva chiamare Anna, però lei ha chiesto, si potrebbe fare una piccola modifica e chiamarla Marco? È una bella liberazione, non trovi? Direi proprio di sì, Alessandra. E va bene, comunque a Sanremo ci torneremo tra pochissimo. Inevitabile. Inevitabile, però intanto alzate un po', Chiappini, alzi un pochino questa solitudine. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli, che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Siamo ancora nel 1993. Io sono ancora Alessandra Fiori e qui io sono qui Franco Schipani. Ciao. Ciao Franchi. Allora, questo 1993, il 15 gennaio a Palermo, si apre con un arresto eclatante. Mentre si insedia Giancarlo Caselli, nuovo capo della procura di Palermo, viene arrestato Salvatore Riina, il capo della mafia. Era latitante, pensa, dal 1969. Lo arrestano i carabinieri del ROS, guidato dal cosiddetto capitano ultimo, ma al processo il capo dei capi, accusato delle stragi dell'anno precedente, rilascia queste dichiarazioni. Conosce, ha mai sentito parlare nell'ambiente che ha frequentato di Cosa Nostra, associazione criminale Cosa Nostra? Guardasse che io, sono avvocato, non ho frequentato nessuna criminale Cosa Nostra e quindi non conosco. La domanda è se riconosce l'esistenza. Se ne ha sentito parlare. No, non ho sentito parlare. Non ha mai sentito parlare di Cosa Nostra? No. Non conosce questa organizzazione? No. Ecco, insomma, Rina non sa niente, dichiara di non conoscere Cosa Nostra, però la mafia conosce molto bene le sue vittime. L'8 gennaio a Barcellona, Pozzo di Gotto, provincia di Messina, la mafia uccide il giornalista del quotidiano La Sicilia, Giuseppe Alfano. Alla morte segue un lungo e tortuoso processo che non fa chiarezza fino in fondo, lasciando ancora ignoti i veri mandanti. Sua figlia, Sonia Alfano, che oggi è una politica, così parla di lui. Spesso si sbaglia, si dice era un eroe. No. Lui diceva sempre, è meglio vivere un giorno da leone che 100 da codardi. Lui forse ha vissuto 10 minuti da leone, però la sua è stata una vita splendida. Io penso che non abbia avuto rimpianti, che non si sia rimproverata nulla. E se lui tornasse indietro, e se lui potesse ritornare in vita e chiedermi, così come ha fatto nel novembre del 92, cosa ne pensassi delle minacce, di tutto il resto? Io gli direi esattamente quello che gli ho detto 10 anni fa, di rifare quello che ha fatto. Ecco, il 9 maggio del 1993 Giovanni Paolo II visita la Sicilia così duramente sotto attacco della mafia e tiene un discorso durissimo e ormai famosissimo. Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita. Lo dico ai responsabili, convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio. Ecco Franco, e mentre c'è in atto questo scontro durissimo, parole dure, terribile, quella del Papa. Nel 1993 questo scontro durissimo tra lo Stato e la mafia, proprio mentre la Commissione parlamentare antimafia approva la prima relazione che parla di esistenza di rapporti specifici tra criminalità organizzata e potere politico, la mafia continua a colpire. E il 14 maggio infatti è la volta di un attentato in via Fauro a Roma. Obiettivo della bomba è Maurizio Costanzo, che all'ultimo momento però cambia macchina. Così anni dopo il presentatore ricorda quel momento. Quel giorno io avevo cambiato macchina. Quei 30, 20, 10, 5 secondi di incertezza nel premere hanno consentito alla macchina di girare e quindi di non prendere la botta d'urto. Se fosse stata la macchina e quindi loro non avessero avuto quei secondi di incertezza, eravamo senza testa, io, Maria, l'autista e il cane. E la cosa bella di una cosa orrenda è che non ci furono morti. Pare che un certo giorno Rina, già dal carcere, disse: questo Costanzo mi ha rotto i coglioni. Ecco, la stagione dello scontro sempre più teso tra Stato e mafia prosegue a Firenze, dove il 27 maggio in via dei Gergofili esplode un'autobomba che provoca 5 morti. Poi il 27 luglio a Milano un'altra autobomba esplode in via Palestro, ancora 5 morti. E poi a Roma, pochi minuti dopo, 2 ordigni esplodono presso la Basilica di San Giovanni in Laterano e la Chiesa di San Giorgio al Velabro. A settembre poi c'è un'altra vittima, questa volta in Sicilia, il parroco del quartiere Brancaccio di Palermo, Don Pino Puglisi, sacerdote da sempre impegnato contro la mafia, viene ucciso la sera del 15 settembre ed è diventato uno dei simboli della lotta contro le mafie. Ma come passa il tempo dai vent'anni poi, come passa il tempo, come si butta via. Come passa il tempo, Vandelli, ex voce dell'Equipe 84, e i Dick Dick e i Camaleonti, addirittura, che come mettere tutti insieme i Beatles, i Rolling Stones e gli Who. Esagerato. A livello italiano, ovviamente, no? Franchi, ho capito che volevi arrivare a Sanremo. Eccoci, d'accordo? Sì, vabbè, una lacrimuccia, perché mi ricordano questi artisti tutti i posteri che io compravo nei giornali musicali negli anni 60, negli anni 70, e mi attaccavo alle pareti. poi puntualmente ogni volta che io sbagliavo un compito di matematica, mia madre arrivava dentro la stanza, strappava tutti i manifesti, basta con questa musica rock, pop, eccetera, eccetera, con questi capelloni, tu bisogna che studi più matematica. Ma fantastico, tu avevi una mamma che se la prendeva con i capelloni? Se la prendeva, veniva in camera e strappava dal muro tutto quello che non era calendari. Consono. Brava. Ho capito. Esatto, e comunque nel 1993 a Sanremo arrivano anche Rod Stewart, Diana Ross, eccetera. Vince Enrico Ruggeri, al secondo posto arriva Cristiano De André, che poi si aggiudica anche il premio della critica. Franco, 1993 è anche un anno un po' misterioso, o almeno ce n'è uno che già da tempo occupa le prime pagine di cronaca dei giornali italiani. Te lo ricordi il mostro di Firenze? Come no, assolutamente. Ecco, dal 68 all'85 la provincia di Firenze è sconvolta da 8 duplici omicidi. Il rituale è molto macabro, perché vengono uccise coppie di fidanzati che si sono appartate in zone ovviamente isolate. Ecco, i media chiamano questo serial killer il mostro di Firenze. Ed ecco che il 17 gennaio del 93 viene arrestato Pietro Pacciani. E finalmente sembra che questo mostro abbia un volto. Però Pacciani si professa sempre innocente. Io non sono quello che è andato a fare questo male. Io sono una persona, ho sempre lavorato per campare la famiglia, sono sempre stato in famiglia e tutti lo possono dire, ha testimoniato anche la mia moglie, dice, già hai visto di bere un bicchiere di vino, ma quello è senz'altro, perché lavoravo tanto, altri vizi non avevo, si beveva un bicchiere di vino e poi mi addormentavo e andavo a letto. Ecco, il processo inizia il 19 aprile del 94, Pacciani viene condannato all'ergastolo, ma continua nel corso di tutto il dibattimento a professarsi innocente. Nel 96 c'è un nuovo colpo di scena. Pacciani viene assolto in appello e scarcerato. Dopo qualche anno morirà prima che il processo si sia totalmente concluso. Franco, mi guardi, mi osservi, ma forse vuoi andare all'estero? No, non voglio andare all'estero, voglio rimanere in Italia, voglio parlare del Festival di Sanremo, però invece di mettere dei cantanti italiani mettiamo, beh, gli ospiti stranieri. Turn me inside out and round and round, upside down. Boy, you turn me inside out and round and round. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Upside Down, Diana Ross, che è una canzone del 1980, e poi Rod Stewart, If I Told You Lately That I Loved You, che è una canzone di Van Morrison del 1989. Van Morrison, una delle voci più belle in assoluto nella storia del rock interplanetario, cara Alessandra. Interplanetario, Franco, allora interplano e ti porto in America, dove Bill Clinton il 20 gennaio si insedia alla Casa Bianca e diventa il 42esimo presidente degli Stati Uniti. Il 3 novembre invece Rudolf Giuliani diventa il sindaco di New York. Finalmente, bravo, un italiano. Evviva. Eravamo felicissimi. E il 2 dicembre invece in Colombia viene ucciso il più importante narcotrafficante del XX secolo ed è Pablo Escobar. Io sono Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo? Frankie, plata o plomo, che scegli? Ma la scena di lui sul ponte che viene fermato dalla polizia dice: che cosa vuoi, soldi o piombo? Plata o plomo, perfetto. E infatti è il motto di Pablo Escobar, il più ricco, il più famoso trafficante di droga di sempre, ed è appunto, Franco, il protagonista di Narcos, la serie televisiva che tu hai visto 6-7 volte. 11 realtà, scusami, sì. Perdono. Ogni episodio 3 volte. Bravo. Però allora la moltiplicazione non fa così. Arriviamo a 24. Comunque, intanto, il primo novembre del 1993 entra in vigore il trattato di Maastricht, che è stato firmato, lo abbiamo visto, l'anno precedente, e nasce l'Unione Europea. In Sudafrica, invece, finisce l'apartheid e Nelson Mandela vince il premio Nobel per la pace. Franco, tu che date storiche mi vuoi segnalare? Cioè, tu dopo Nelson Nelson Mandela, sì, che l'appartenenza, cioè, vuoi delle date da me musicali, sì, ma, guarda, io quelle ti posso dare, quelle del Festival Bar, vabbè, cioè, mi stai facendo fare veramente delle figure. Comunque nel 1993, dimmi, parliamo di date, ecco, questo Festival Bar lo presenta Amadeus insieme a Federica Panicucci, storica, una cosa storica. Non si parla d'altro poi negli annali, ogni certo, volta che vai nel 1903 la prima cosa che trovi è questa del Festival Bar, che sono spalleggiati da Claudio Cecchetto e Fiorello. Perché ne parliamo? Ne parliamo perché su questo itinerario di 8 puntate, con la serata finale veramente alla grande, ha avuto una audience veramente incredibile. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. E quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora. Sei bella come il sole, a me mi fa impazzire, oh. Sei bella come il sole, a me mi fa impazzire, eh. Sono cantante di blues, mi vesto male, ma adesso bevo acqua minerale. Sono cantante di blues e non si ferma per niente al mondo. Porto i miei anni nei jeans e qualche volta ho toccato il fondo. Giovanotti, che è un ragazzo fortunato, e Pino Daniele, che è invece un cantante di blues. Allora, abbiamo pochi artisti in classifica nel 1993, però italiani, cerchiamo, sì, quelli italiani, come abbiamo detto fino adesso, però facciamo una cosa, prendiamo due piccioni con una fava. Radio Baccano, mondo cristiano, indù, buddista, ebreo, musulmano, fine del mondo, segnale orario, colonna sonora di questo scenario di guerra. Un suono di... Radio Baccano, Gianna Nannini, avete sentito, e poi questo ovviamente è Lorenzo Giovanotti. Insomma, un pezzo fantastico, attualissimo. Beh, Alessandra, dimmi, senti un po' questo brano? Ma che hai tirato fuori? Allora, il telefono azzurro è una Onlus che è nata nel 1987. Grazie. Che poi è stata riconosciuta dall'ONU 2 anni dopo. Mm. Comunque, questo brano è cantato da un bambino di 4 anni francese che aveva la sfortuna di avere un papà produttore discografico. Ah, ok. Che ha avuto l'idea, ha detto, lo senti, questo ha 4 anni, ha venduto non so quanti milioni di copie in tutto il mondo. Ma secondo te è cresciuto felice o con qualche piccolo problema poi? Con qualche piccolo problema, perché ragazzi, da 4 anni la tua, come si dice, la tua poi carriera va anche solo in discesa. Hai delle aspettative un po' alte. Ma no, va in discesa. Parti da lì sopra a 4 anni, che fai? Appunto, non puoi mica fare più Michael Jackson, no? Senti, comunque il bambino prodigio. E c'è anche un altro prodigio, non è esattamente un bambino, però è un bel prodigio. Ladies and gentlemen, Federico Fellini. È il 25 marzo del 1993 a Los Angeles. Federico Fellini ritira il suo ultimo Oscar, che è quello più importante, quello alla carriera. Se lo meritava tutto. Beh, sì. Tutti i suoi fan a Hollywood. Il 31 ottobre dello stesso anno poi morirà a 73 anni. E un altro regista italiano, un quarantenne invece, mette a segno nel 93 uno dei suoi più grandi successi, un successo a cui noi romani, una pellicola a cui noi romani siamo particolarmente legati. I'm your man. E andando in Vespa mi piace anche fermarmi a guardare gli attici dove mi piacerebbe abitare. Mi immagino di ristrutturare appartamenti su in alto che vedo dalla strada, ma appartamenti che i proprietari non hanno nessuna intenzione di vendere. E di solito non abbiamo nessuna possibilità di comprarli. Lui naturalmente è Nanni Moretti, il molto film ironico, sì. Caro Diario, che pensa nel 94, ovvero l'anno prossimo, vince il premio per la migliore regia al Festival di Cannes. Franchi, iniziando questo 93, tu mi hai detto che in classifica c'erano pochi brani italiani e molti, molti in inglese. Quindi a questo punto immagino che i brani italiani siano quasi tutti andati. Sì, infatti. Facciamo una cosa, andiamo in Inghilterra. Somebody to Love, questa è la versione George Michael con i Queen. Ricordiamo che questo brano è del 1976, è un singolo preso da A Day at the Race, ripreso nel 1993 nei Greatest Hits. Insomma, un bel pezzo, non c'era più Freddie Mercury, però hanno messo un George Michael che non fa mai male, un grandissimo interprete. Franchi, io devo tornare al cinema, perché questo 1993 al cinema è piuttosto importante e ci sono dei film molto interessanti, e prima di tutti c'è questo. Una volta è stato detto: se vuoi qualcuno a tutti i costi, lascialo libero. Se torna da te, è tuo per sempre. Se non lo fa, allora, tanto per cominciare, non è mai stato tu. Ecco, se vuoi qualcuno a tutti i costi, lascialo libero. Ma quanto mi piace dire queste cose. Lei naturalmente dicevi non ci credo, non che l'hanno messo, credo. È così, lei è Demi Moore, il film naturalmente è Proposta indecente con Robert Redford, e se vuoi qualcuno a tutti i costi, lascialo libero. Io non so se sono tanto d'accordo. Detto questo, è un successo clamoroso al botteghino, ma viene stroncato dalla critica, perché pensa che si conquista 3 Razzie Award, ovvero gli Oscar per il peggior film, peggiore sceneggiatura e peggior attore non protagonista. Però gli americani recuperano con un grande film. Questa è la mia aria preferita. È Maria Callas. È l'Andrea Chenier. Umberto Giordano. Lei è Maddalena. Sta dicendo come durante la rivoluzione francese i rivoltosi diedero fuoco alla sua casa. Vabbè, Philadelphia di Jonathan Demme. Lo sai, Franky, che per interpretare la parte Tom Hanks perse 12 kg, mentre un altro attore, Ralph Fiennes, ne ingrassò 13 per interpretare il protagonista di un commovente film storico. Ma secondo te è più difficile ingrassare per fare un film o perdere peso? E secondo te? Ma che fa, me lo chiedi? Ma dovresti chiedere a De Niro quando ha fatto Toro Scatenato. Ti ricordi la scena del problema a muscoli? Se parliamo di peso, la domanda è retorica. Con la pancia, stai dicendo. Esatto. Comunque, Ralph Fiennes ne prese 13 per fare questo film. Avrei potuto salvarne altri. Non lo so, se soltanto io avrei potuto salvarne altri. Oscar, ci sono 1100 persone che sono in vita grazie a lei, le guardi. Diretto da Spielberg, è la consacrazione di Spielberg e vince l'Oscar nel 94 come miglior film, Franky. Allora, continuiamo l'onda lunga del cinema, passando però alla musica. Beh, senti un po' cosa ce ne arrivo. And love you. Stay in my- I Will Always Love You and I Have Nothing, Whitney Houston, dalla colonna sonora del film The Bodyguard, la guardia del corpo, che ha incassato un trilione di yen, credo, questo di yen, di marchi, non lo so, cioè veramente un disco che ha incassato tantissimo. Adesso ti faccio sorridere perché sta per arrivare. Chi? Beh, abbiamo fatto vedere Whitney Houston. Lei, sentire, lei Whitney sta Houston arrivando. Sta arrivando lei, allora guarda che arrivi lei. Deeper and Deeper della tua adorata Madonna. Madonna, Madonna. Comunque sai che questo brano è riuscito a vendere 900.000 copie ma di strano, singolo. Anche un po' pochine per lei. Anche secondo sì, poi, sì, è proprio sì, una sì, fine sì. scatenata. Franchi, siamo arrivati anche alla fine del 1993 e noi come sempre chiudiamo con una canzone scelta dalla nostra adorata, insuperabile, Antonella Migliaccio. Che non sbaglia mai, che non sbaglia mai, bravo, mai, bravo. Mai. E quest'anno la scelta però per lei da napoletana vera qual è? Gioca in casa. Esatto, è stata obbligata perché nel 93 Pino Daniele canta Allora sì. Sei pronto? Prontissimo. Allora, noi quando ci rivediamo adesso? Noi ci rivediamo tra una settimana, ci rivediamo nel 1994 e sentiamo Allora sì di Pino Daniele. Ciao! Ciao! Lunedì mi lasciasti in quell'angolo così, gli occhi fissi sulle tue parole, non ti servo rancore ora. Lunedì mi tenevi stretto fra i libri di scuola, fra i palazzi vecchi di questa città da emozione ancora. E allora sì, che vale la pena vivere e soffrire. E allora sì, che vale la pena crescere e capire. Credere ancora all'amore, farsi portare un po' di più, oppure tutta suggestione, questa vita, oh, oh. Lunedì cerco Enrico ma Enrico non si trova, forse a caso oppure in autostrada ancora. Noi che corriamo troppo questa solitudine. E allora sì, che vale la pena vivere e soffrire. E allora sì, che vale la pena crescere e capire. Credere ancora all'amore, farsi portare un po' di più, oppure tutta suggestione, questa vita, questa vita.